iniziato tutto con il mio debutto. In questo mondo farabutto e non sono una tua foglia, ma l'unico frutto in questa pianta maledetta. E dammi retta e brutto quando non stai bene da nessuna parte, quando non ci sono assi nel tuo masso di carte, stando con dei massi addosso men disparte. Perché non sentire niente è diventata la tua arte. Con questi presupposti cosa potevo aspettarmi da una vita che col tempo mi ha portato solo drammi? Ma ora devo raccontarmi e cerco di calmarmi con tutto quello che c'è in testa. C'è poco da stare calmi, c'è anche chi mi vuole bene come Dalla con Caruso, ma un affetto è l'inizio di ogni singolo soppuso. Ed è per questo che ogni giorno in me sono rinchiuso. Sono solo, sono stufo, illuso, col cervello fuso. Dammi un'emozione, fallo per la mia esistenza. Brucerà l'inferno e la mia permanenza in questa terra. Tra amore e violenza, nulla servirà a farmi lavare la coscienza. Dammi un'emozione, fallo per la mia esistenza. Brucerà l'inferno e la mia permanenza in questa terra. Tra amore e violenza, nulla servirà a farmi lavare la coscienza. Quando giri intorno, dimmi cosa vedi, per me non c'è strada. Vedo solo i marciapiedi tra quello che credi e progetti concreti. Contro c'è la realtà e i suoi tirapiedi. Non piegare il cucchiaio è impossibile. Conoscere se stessi rende tutto invivibile. Giudicami pure, io manco ti conosco e fuori dai miei testi sembro pure un tipo a posto. Oggi ho visto una scena che mi ha ricordato quando ero un bambino, solo e preoccupato con tutta la paura di non essere accettato. E già ai tempi scrivevo nel diario segreto che alla fine di segreto non c'era proprio niente, solite cazzate e cattiverie della gente. Poi mi sono incattivito, incazzato e sono evaso. Prendo la pillola rossa, tu sta attento al vaso. Dammi un'emozione, fallo per la mia esistenza. Brucerà l'inferno e la mia permanenza in questa terra. Tra amore e violenza, nulla servirà a farmi lavare la coscienza. Dammi un'emozione, fallo per la mia esistenza. Brucerà l'inferno e la mia permanenza in questa terra. Tra amore e violenza, nulla servirà a farmi lavare la coscienza. Quanti posti che viaggiando vorrei visitare, quanta vita non vissuta non potrà più ritornare. Quindi vivo ogni istante come finisse domani, ma progetto ciò che è giusto e c'ho sto mondo tra le mani. Chi l'avrebbe mai detto che avrei scritto di me sopra un disco, sopra un beat e senza un perché? Cosa c'è rimasto di un ragazzo introverso che per strada poi si è perso? Ed io lo cerco in ogni verso, sono la conseguenza di tutto ciò che ho visto e scrivo la mia via crucis come nella Bibbia. Cristo nella mente il mio domani e non dimentico le origini. Oggi che se sorrido sento le vertigini, sono stato così giù che l'avrei fatta finita. Quando tutto sembra buio e non c'è via d'uscita, ma ho acceso gli abbaglianti e rotto questo vetro. Ora che sono troppo avanti quando mi tirano indietro. Dammi un'emozione, fallo per la mia esistenza. Dammi un'emozione, fallo per la mia esistenza. Dammi un'emozione, fallo per la mia esistenza. Per la mia esistenza. Times 2013.